l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti a questa puntata in diretta dell'Altra Europa. Siamo a Ferrara, a chiostro di San Paolo, per questa diretta dal Festival di Internazionale. Saluto il pubblico, grazie per essere qua, più forti della pioggia e del freddo, ma è il bello del Festival di Ferrara, che c'è un Festival A e un Festival B. È da questa mattina che i tecnici stanno lavorando per spostare tutti gli eventi al coperto, anche noi siamo qui dentro al chiostro, sotto i portici, quindi ce la faremo. Una rassegna stampa europea, come da tradizione per l'altra Europa durante il Festival, e un po' degli ospiti, protagonisti delle giornate di questo intenso, ricco programma. Do il benvenuto a Giampaolo Accardo, condirettore di Press Europe. Ciao Giampaolo. Ciao Federico. Poi ci racconterà velocissimamente che cos'è Press Europe e sarà un po' la guida di questa rassegna stampa europea che faremo in sintesi questa mattina. Poi Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale. Ciao Jacopo. Ciao, buongiorno a tutti. Lui oggi animerà un importante appuntamento di cui poi ci parlerà, ma andremo anche a scorrere un po' il programma insieme. E poi Nicola Delcroix, capo unità del Direttorato Emergenze del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Buongiorno Nicola. Conosceremo questo importante servizio europeo anche alla luce di quello che sta accadendo in queste ore. Altri ospiti che arriveranno, ma entriamo nel vivo della puntata. Giampaolo, come sempre ti sei svegliato questa mattina presto, cosa che fai quotidianamente per Press Europe. Ricordaci intanto in sintesi che cos'è Press Europe. Press Europe è un sito di attualità europea, il primo sito di attualità in 10 lingue, e noi proponiamo ogni giorno il meglio della stampa estera ed europea tradotto in appunto 10 lingue, tra cui il ceco, il romeno, il portoghese, lo spagnolo, ovviamente l'italiano, l'inglese, eccetera. Dove ci porti immediatamente con i quotidiani? Comincerei dal giornale internazionale per antonomasia, l'International Herald Tribune, quindi l'edizione internazionale del New York Times, che in prima pagina rende omaggio a forse quello che è stato uno dei più grandi avversari degli Stati Uniti nel XX secolo, cioè il generale Von Nguyen Giap, il generale dell'esercito nordvietnamita, che sconfisse prima i francesi a Dien Bien Phu nel 54 e contribuì a cacciarli dall'Indocina, e poi sconfisse gli americani nel Vietnam, durante la guerra del Vietnam, spingendoli anche loro ad andarsene. È morto ieri a 102 anni. L'Era Tribune dedica anche un ampio spazio in prima pagina alla questione degli immigrati che attraversano il Mediterraneo rischiando la vita, alcuni poi sono anche morti nella tragedia dell'altro giorno, e dice che il rischio mortale non funge da deterrente per i migranti, e la storia di prima pagina spiega che benché la strada principale che è usata, quella che passa per la Libia o la Tunisia, va verso l'Italia, sia estremamente rischiosa, gli migranti continuano a provare a passare da lì e provano anche a passare dalla Spagna, perché ovviamente lo stretto di Gibilterra è un po' più semplice da attraversare. Vedremo adesso che la tragedia di Lampedusa è in prima pagina di molti giornali europei anche. Andiamo qui in Svezia con Dagens Nyheter, il quale ha in prima pagina un titolo che ci riguarda. Dice: Lampedusa, tristezza e rabbia dopo la tragedia. Il giornale spiega peraltro che i sommozzatori, come diceva il GR prima, hanno interrotto le ricerche ieri per via delle ricerche dei dispersi per via del maltempo. Continuiamo. E adesso andiamo in Belgio, The Standard, un giornale fiammingo di Bruxelles, che titola invece Le storie di Lampedusa, e vediamo qui due fotografie che sono state trovate addosso a due delle vittime del naufragio dell'altro giorno. E The Standard riprende le storie di queste vittime così come le aveva raccontate il Corriere della Sera. Andiamo avanti, passiamo a Le Monde, grande quotidiano francese, che Le Monde, uscito ieri ma con la data di oggi, che titola duro: Lampedusa, l'indifferenza colpevole dell'Europa. Bisogna dire che in molti giornali l'Europa è messa in causa. E finiamo con il Times of Malta. Malta al centro è un crocevia di passaggio anche dei migranti che dall'Africa vanno verso l'Europa, e il Times of Malta parla del Papa d'Assisi: sono giorni di lacrime per le vittime di Lampedusa. Grazie Giampaolo. Nicola, Nicola Delcroix, capo unità del Direttorato Emergenze del Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Intanto, che cos'è questo servizio europeo? Ce lo puoi Sì, certo, presentare? Il servizio europeo, diciamo, è uno dei servizi operativi a disposizione delle istituzioni dell'Unione Europea per lavorare appunto con i paesi terzi, cioè all'estero. È una specie di servizio estero, una specie di ministero degli esteri, se vogliamo molto semplificare, europeo. Ovviamente, come sapete, l'Europa in questi giorni è stato molto ripresentato anche a causa della vicenda di Lampedusa, fatta da 28 Stati membri. La parte di politica estera dell'Europa è una politica basata sul consenso e quindi si deve trovare l'accordo di 28 Stati membri per poter poi implementare queste politiche. Avete partecipato ieri, avete fatto questo convegno Europa, aiuti umanitari e diritto di ingerenza, dove avete toccato appunto queste tematiche. In particolare su Lampedusa, ovviamente non possiamo chiedere a te nello specifico la soluzione, però è sicuramente uno di quei campi dove certo. Operate. Tu certo. Hai tantissima esperienza nei paesi d'origine, nei paesi africani. È lì una parte del problema e o una parte della soluzione? Sì. Certo, c'è una parte della soluzione e ti ringrazio di aver toccato questo aspetto che è stato un po' evocato ma non abbastanza probabilmente nel dibattito di questi giorni. Ho sentito moltissimo nel dibattito e anche adesso, Giampaolo l'ha presentato, l'accusa all'Europa di non fare abbastanza, di dimenticarsi il giorno dopo praticamente che esistono queste tragedie. Vorrei spendere un attimo una lancia invece in favore dei servizi europei che non si dimenticano, perché ci sono molti servizi europei che non si dimenticano. Uno di questi è il servizio estero, un altro servizio molto importante è il servizio di aiuti umanitari, altro servizio importante è il servizio alla cooperazione e allo sviluppo. Questi non si dimenticano, te lo posso dire in prima persona perché io ho lavorato molti anni in Africa e molti anni nel Corno d'Africa, che è una delle zone di origine dei migranti, sia migranti economici, come vengono definiti quelli che sfuggono appunto la miseria e la povertà, sia migranti per cause politiche o etniche. Lì l'Unione Europea, vi assicuro che non si dimentica. Il lavoro è costante e quotidiano, basato sull'aiuto a questi paesi per il loro sviluppo e anche nello specifico della parte relativa alle migrazioni. Non è solo un lavoro per lo sviluppo economico dei paesi, ma è anche un lavoro con le autorità di questi paesi, le autorità giudiziarie, le autorità politiche, per anche smantellare i gruppi di criminali organizzati che vanno a prendere la gente per portarli. Esperienze personali piuttosto anche impressionanti sono di vedere le lunghe file di migranti che attraversano zone desertiche senza acqua e senza viveri per arrivare alla costa di Djibouti, da dove sono presi dai cosiddetti passeur, cioè quelli che in barca li portano in Yemen o nella penisola arabica, e lì c'è un'altra delle rotte migratorie importanti, non solo quella verso la Libia ma quella che passa attraverso la penisola arabica, e purtroppo molti già non riescono a superare il primo passo di arrivare alla costa dello Yemen. Ci sono morti già all'inizio. È una tragedia immane, ma l'Unione Europea non è che si dimentica, come abbiamo sentito sui giornali, ma fa un lavoro veramente importante in questi paesi. Poi la dimensione dell'accoglienza, la dimensione del blocco dei barconi e tutto quello è un altro aspetto su cui si può dibattere lungamente. Ma questo aspetto vi assicuro che è molto molto seguito. Ringrazio Nicola Del Cura per questa importante testimonianza. La puntata di oggi sarà questa, lanciare anche dei sassolini su quello che sta succedendo al festival, ma quello che succede al festival è metafora concreta anche di quella che è l'Europa. L'altra Europa. Eccoci qui, l'altra Europa, sempre al chiostro di San Paolo, vicino a noi anche lo stand della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ho con me un paio di libri che poi regaleremo anche ai nostri ospiti. Il Dottor B in Europa è stato presentato ieri, è una sorta di glossario anche divertente, perché una volta ogni tanto, insomma, anche l'Europa, l'istituzione, riesca a non prendersi troppo sul serio, quindi è una bella lettura e anche una vignetta per l'Europa, che è il concorso che viene fatto ogni anno qui al Festival. Anche lì si sorride in maniera anche amara su quella che è la nostra Europa. Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, cosa vuol dire oggi raccontare l'Europa per un giornale? È una sfida impossibile? È una sfida fattibile? È molto difficile raccontare le istituzioni europee, perché vengono percepite come troppo complicate e tendenzialmente abbastanza noiose. Quindi è più facile raccontare i paesi e attraverso i paesi raccontare qualche volta anche come agiscono in Europa. E raccontare più i fenomeni sociali che attraversano l'Europa e che in questa situazione di crisi talvolta si somigliano. Pensiamo alle questioni dell'immigrazione e a tutte le questioni dell'Europa del Sud, pensiamo all'emergere dell'estrema destra in varie forme in Grecia, in Francia. E quindi è più facile raccontare questi fenomeni che raccontare le istituzioni europee, che vengono percepite come noiose, delle volte macchinose e lontane dai cittadini. C'è un deficit di democrazia indubbiamente nell'Unione Europea, quantomeno percepito, e adesso vedremo se con le elezioni europee di questa primavera si farà qualcosa su questo, e le istituzioni sono percepite come lontane. Delle volte noi stessi ci facciamo dei problemi, per esempio, a mettere l'Europa in copertina, perché, come si dice, non è difficile presentarla in modo sexy. Ecco. Ecco, stavo aspettando questa parola, perché sta girando da mesi che l'Europa deve essere più sexy, più sexy, più sexy. Insomma, forse basterebbe rendere un po' più umana, cioè forse bisogna passare più dalle storie, meno dalle istituzioni, che è quello che si tenta di fare. Anche perché c'è una semplificazione sia dei media che dei leader politici dei paesi, cioè da una parte si dà la colpa all'Europa delle cose brutte. Prima Nicola lo diceva bene, Nicola Del Croix. Pensiamo a questa faccenda dell'immigrazione. Naturalmente i servizi europei sono molto attivi nel portare aiuti umanitari, dall'altra parte però la politica migratoria la fanno gli stati, e gli stati impongono questa concezione di Europa fortezza che poi porta anche a queste tragedie di questi giorni. Fra pochissimo due testimonianze di cosa significa raccontare l'Europa. Tu intanto segnati con un po' di asterischi qualche evento da segnalarci per il programma di oggi e domani qui dal Festival. Giampaolo, dove ci porti con la rassegna stampa? Io mi ricollegherei a quello di cui parlava Jacopo adesso e vi porterei in Austria, Der Standard, un grande quotidiano austriaco che ha, come potete vedere a sinistra, un titolo che riguarda l'Italia e l'Unione Europea. In sostanza dice: l'Italia spinge per una ripartizione dei migranti all'interno dell'Unione Europea. E in effetti è un leitmotiv anche quando avvengono delle tragedie come quella dell'altro giorno. Gli stati che sono in prima persona esposti, di solito l'Italia e Malta, chiedono sempre all'Unione Europea di intervenire per dare loro i mezzi finanziari per affrontare l'emergenza e anche per ripartirsi i migranti che entrano in quei paesi, perché bisogna sapere che la legislazione europea in materia di immigrazione fa sì che le persone che arrivano in Europa da fuori devono chiedere asilo nel paese in cui sono arrivati, ed è quel paese che deve gestire la cosa. Quindi paesi come l'Italia, Malta o la Grecia, anche dove entrano molti migranti, devono sopportare il peso finanziario e anche sociale più importante in questi casi. E Der Standard continua a spiegare che Bruxelles sottoporrà al Consiglio dei Ministri un piano di emergenza per affrontare la questione dell'immigrazione. Chiudo con Der Standard invece con la notizia che è a destra. Voi sapete che si è votato in Austria il 29 settembre e ci sono delle discussioni tra i due partiti principali, socialdemocratici e cristiano-democratici, per formare una coalizione di governo, e nella vignetta di Oliver Schops si vedono i leader dei due partiti principali, quindi il cancelliere uscente Faymann vestito di rosso e il leader del partito cristiano-democratico vestito di nero, i colori dei loro partiti, che cercano di resistere alle sirene di Strache, che è il leader del terzo grande partito austriaco, il partito di estrema destra, il Partito per la Libertà. Ma Giampaolo, ogni volta che entra un nuovo Stato nell'Unione per te aumenta il lavoro? Sì, sono giornali in più da leggere e un paese in più. Sì, adesso con la Croazia in effetti abbiamo parecchio da fare in più, ma è sempre gradevole, insomma. Andiamo, era a Zagabria il 30 giugno e questa era la musica che ha accompagnato l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Mm-hmm. Il benvenuto alla Croazia lo diamo con Silvito Tomasevic, giornalista croato, corrispondente da Roma e dal Vaticano per il quotidiano Vecerni List. Sì, almeno una cosa l'ho pronunciata bene, sì, o nulla? Sì, Vecerni List, va bene. Corriere della Sera, traduzione. Ah sì? Silvie e Silvio. Silvio, okay. Silvio è scritto in croato, sono Silvio. Silvio del Corriere della Sera, preferisce essere presentato così. Va bene così. Okay. Come sta la Croazia? Male, grazie. Ecco, bene, possiamo chiudere qua. Come mai? Il debito pubblico, il deficit, il PIL che non si alza, tutto quello che ci chiede l'Europa, sta maledetta Europa dove siamo entrati, no, tutti i guai sono quelli che ci porta Europa. Abbiamo adesso un'altra possibilità di scaricare le nostre colpe all'Europa, così fanno tutti gli stati. Se non ci fosse l'Europa, cosa direbbero in Italia? Di chi è la colpa che l'economia non va? Di chi è la colpa del deficit pubblico? Di chi è la colpa di tutto? Anche Olli Rehn, che viene a dirci cosa fare, anche lui ha le colpe, maledetto calciatore che non sa altro. Questo è l'Europa diventata per gli stati, e così anche per la Croazia. Andava male prima, va male adesso, ma adesso abbiamo un colpevole, che è l'Europa. Avete un alibi. Abbiamo visto i festeggiamenti proprio all'ingresso della Croazia, erano festeggiamenti di facciata, o comunque nella popolazione c'è desiderio, c'è voglia di apertura verso l'Europa? No, c'è una grande volontà, un grande desiderio dell'Europa. Negli anni 90 c'era il primo referendum consultivo, quasi 90% dei votanti hanno votato per l'ingresso in Europa. Poi pian piano, come si avvicinava questo evento, diminuivano erano più quelli euroscettici che quelli che volevano entrare in Europa, ma euroscettici sono sempre più interessanti anche per i giornali, perché dicono quello che poi i giornali trasmettono. Quelli che sono per l'Europa unita, per ampliare l'ingerenze dell'Europa, sono molto, molto anche loro zitti, e poi neanche interessanti per i giornali. Ma finché l'Europa sarà così divisa, non so quanto potrà andare avanti. Una volta negli anni 70, Henry Kissinger, che era il capo della diplomazia americana, ha detto: quando potrò, quale prefisso devo chiamare per chiamare l'Europa? Finché non ci sarà questo prefisso europeo, è difficile parlare dell'Europa unita. Silvi, ti lasciamo perché tu fra una mezz'oretta qui al Dipartimento di Giurisprudenza avrai questo evento, la balcanizzazione dell'Europa alle frontiere orientali dell'Unione, quindi sono proprio questi gli argomenti che si andranno a toccare. Un'ultima domanda però, in questo momento è facile raccontare l'Italia ai croati? L'Italia è difficile raccontarla anche agli italiani, pensa un po' ai croati. Okay. È un esercizio di stile, diventa. Okay. Grazie davvero, grazie davvero per la tua partecipazione. Poi anche con noi Lucia Maggi. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao. Giornalista collaboratrice del Paese, una storia come tante altre di una giornalista che sognava di fare questo lavoro, hai scelto di andare all'estero. È stato il tuo percorso? No, il percorso è stato in realtà, forse non so se davvero avevo questo sogno di fare la giornalista, comunque è venuto da sé. Lavoravo in radio a Bologna, siamo della stessa città, e poi ho scelto di fare questo Leonardo, un programma dell'Unione Europea che permette di fare uno stage all'estero. Siamo grandi sostenitori. E infatti mi ha davvero cambiato la vita, perché sono andata a lavorare in un giornale a Barcellona per 6 mesi, quindi lì è stata una specie di battesimo, nel senso che ho iniziato a scrivere in spagnolo, poi ho fatto un master a Madrid e sono rimasta al paese qualche anno, poi ho deciso di tornare. Europa del Sud, la generazione senza lavoro, questo è il titolo dell'incontro a cui parteciperai domani, domenica 6 ottobre. ti senti appartenente a questa generazione senza lavoro che ti ha portato in giro per l'Europa, adesso ti ha fatto ritornare. Sì, sì, evidentemente ne sono parte. Sono tornata, in realtà non ho ben chiaro se sono parte, diciamo, se racconto con la mia storia il rientro in Italia o la fuga dalla Spagna, perché insomma ormai dall'Europa e dalla Spagna, io l'ho vissuta lì, insomma, questi anni, sono diventati da paesi che attraggono, ma a paesi da cui invece si fugge, no? La Spagna lo è tantissimo. Io prima, venendo qui, stavo ricordandomi, insomma, i miei amici a Madrid che mi hanno fatto compagnia, proprio il mio micromondo, insomma, il mio piccolo punto di vista, diciamo 6 persone che erano i miei punti di riferimento a Madrid. Adesso quando torno ce ne sono 2, di cui una sta per andarsene, quindi diciamo che la Spagna, così come l'Italia, sono diventati paesi da cui i giovani, questa generazione di disoccupati più che di cervelli in fuga, perché questo siamo, insomma, persone che si barcamenano, hanno un lavoro precario, quindi non sanno mai dove saranno fra 3 mesi e quindi insomma si muovono per forza di cose. Rimani con noi perché ci spiegherai come hai raccontato la crisi spagnola, parleremo poi anche della crisi greca, lo faremo con Andrea Segre, regista del film In debito con Vinicio Capossela. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico dietro di me, si sta già scaldando Lilian Thuram, che sarà in diretta subito dopo la pubblicità. L'altra Europa. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Tadia, questa è sempre l'altra Europa, sempre in diretta dal chiostro di San Paolo, Festival di Internazionale. Diamo il benvenuto a Lilian Thuram. Ciao Lilian. Ciao, buongiorno. Come si dice, calciatore o ex calciatore? Ex calciatore, perché ormai sono vecchio. Sì, eh? Sì, sì, quindi, non ce la faccio più. Ex calciatore protagonista qui al Festival, scopriremo fra pochissimo perché. Giampaolo Accardo, la rassegna stampa invece di Internazionale, continua la rassegna stampa europea, sì. Alcune delle testate che sono appunto uscite sui quotidiani europei oggi. Sì, beh, rimaniamo in Spagna dove ci ha portato Lucia Maggi con l'Avanguardia. L'Avanguardia ci parla di una cosa che ha fatto molto discutere in Spagna in questi giorni, il fatto che ci sono dei terremoti lungo la costa del Mediterraneo, e questi terremoti sono provocati dall'attività umana, stranamente. Infatti, al largo della costa catalana c'è una piattaforma che si vede qui in prima pagina dell'Avanguardia, l'Avanguardia che titola "Nessuno misurò il rischio di errore", e da questa piattaforma petrolifera viene iniettato in un ex giacimento petrolifero che si trova sotto il mare del gas. È una forma di stoccaggio del gas che viene usata in modo abbastanza corrente nel mondo, perché si sfruttano delle specie di enormi bolle che si trovano sottoterra come luogo di stoccaggio. Solo che la pressione indotta dal fatto che si infili il gas sottoterra ha provocato l'allargarsi di alcune faglie nel sottosuolo marittimo, e questo allargamento ha provocato dei terremoti di intensità 3-3-7 sulla scala di Richter. Il giacimento si chiama Castor. Ora passiamo a un tutt'altro paese, andiamo in Turchia. In Turchia con Hürriyet Daily News, che è la versione inglese del quotidiano Hürriyet, uno dei più diffusi in Turchia, che titola su il presidente Abdullah Gül mette in guardia contro un medioevo islamico. Dunque, ieri, durante un discorso in pubblico, il presidente della Turchia ha messo in guardia i suoi ospiti, che erano un parterre di imprenditori e di politici europei e asiatici, sul fatto che nel Medio Oriente in questo momento ci sarebbe in corso non uno scontro di civiltà, di cui si parlò molto dopo l'11 settembre, ma uno scontro all'interno della stessa civiltà islamica, e questo potrebbe provocare una spaccatura del mondo musulmano, che potrebbe andare o verso una forma più radicale o verso una forma più laica, più ispirata al modello turco. Vediamo che Hürriyet Daily News parla anche della questione dell'immigrazione e dei migranti dopo la tragedia di Lampedusa. Il disastro italiano riaccende il dibattito sulla migrazione, e vediamo un'altra notizia interessante in mezzo, una foto di alcuni studenti ungheresi nudi, che sono degli studenti di un'università ungherese che protestano contro il fatto che il rettore abbia chiesto loro di vestirsi in modo un po' più conservatore, quindi per protestare loro si sono messi nudi. Era sicuramente più caldo di qua. Tu la mattina dai una sfogliata a tutti i quotidiani europei e poi che umore hai? No, ma di solito il mio umore è buono, anche se le notizie sono cattive, poi insomma le cattive notizie sono notizie, le buone notizie. Ecco il giornalista che c'è in lui. Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, sta sfogliando il programma che io pensavo conoscesse a memoria, vabbè, qui cosa ci segnali? Un paio di qualche appuntamento da non perdere tra oggi e domani? Guarda, naturalmente c'è tantissima Europa, tu l'hai certo accennato, la balcanizzazione dell'Europa, parleremo delle rotte della speranza e dell'immigrazione e delle politiche europee con Fabrizio Gatti questa mattina al Cinema Apollo, presenteremo il libro di Delio Lanes su Alba Dorata, domani appunto Lucia Maggi e altri ospiti insieme anche a Giampaolo Accardo racconteranno la generazione perduta. Parleremo ovviamente anche di Siria e dell'autunno arabo, dall'Egitto alla Siria, cosa resta delle rivoluzioni, sia oggi alle 18 che domani al Teatro Comunale con Robert Fisk e Vittorio Emanuele Parsi. Ma ci si occuperà anche di altri temi molto distanti da questo. Oggi in Piazza Municipale scienza e funzionamento del cervello, una memoria d'elefante, intervista di Marino Sinibaldi a Joshua Foer, come allenare il cervello e imparare la lingua in un mese. Quindi naturalmente vado a salti perché le cose che ci sono nel programma sono tantissime. Ci occuperemo anche di Africa e di letteratura africana e invece ci chiuderemo con un incontro sull'informazione, il prossimo scoop, in cui Marino Sinibaldi domani al Teatro Comunale alle 4:30 intervisterà la direttrice di un grande quotidiano di carta, Le Monde, Nathalie Nougared, e insieme il direttore di un grande mezzo di informazione online americano, ProPublica, che ha vinto che ha già vinto dei premi Pulitzer, nato recentissimamente, che si chiama Steven Engelberg. Questo un pochino a volo d'uccello, poi naturalmente oggi alle 19:30 Lilian Thuram in Piazza Municipale, ovviamente, e stasera per festeggiare i 20 anni di Internazionale, dopo le 11, 3 DJ set per ballare anche un pochino. Ah, eccolo lì, il gran finale, questa sera. Lilian Thuram, Le mie stelle nere, questa sera alle 19:30 in Piazza Municipale. Lilian, ti ho invitato perché stai facendo un lavoro al di là del libro che è un viaggio nei tuoi miti, si può usare la parola mito? Sì, possiamo. Che hai raccontato? Però questo libro è dovuto alla mia vita, perché io mi ricordo quando ero giocatore di calcio e che i giovani mi chiedevano gli autografi, dicevo dai, posso fare una domanda? La prima volta che avete sentito parlare delle persone nere a scuola, quando era, la maggior parte delle persone mi dicevano che era durante la schiavitù. E io mi sono detto, sì, tutta una popolazione, che sia in Italia o in Francia, comincia la storia dei popoli neri per la schiavitù, è normale dopo avere un'idea sbagliata di persona nera. E per cambiare questo bisogna portare un cambio di immaginazione. Allora ho presentato delle persone conosciute o sconosciute, come Aesop, Tarkan, Faron, Marcus Garvey, per fare capire che c'è un'altra storia. E io credo che ognuno di noi siamo condizionati ad una maniera, allora bisogna cambiare questo condizionamento per vedere le persone in una maniera differente. Tu, da ex calciatore, hai fondato questa fondazione che porta il tuo nome per lottare contro il razzismo, cosa che fai in Francia, cosa che stai facendo anche in Italia, girando molto nelle scuole. Cosa hai capito da quando frequenti così tanti giovani in nazioni diverse per toccare questo argomento che, ahimè, è attualissimo? Però diciamo che ho capito che il razzismo, prima di tutto, è una tradizione. Io credo che questa è la problematica, perché il razzismo è dovuto a una gerarchia che è molto lunga, una gerarchia dove hanno messo le persone bianche sopra e le persone nere, che erano la catena mancante fra la scimmia e l'uomo. Io credo, per capire il razzismo, bisogna capire il sessismo. Il sessismo è la più vecchia gerarchia fra gli uomini e le donne. E credo che dobbiamo discutere sulla nostra tradizione per essere consapevoli di questo, perché tante volte la tradizione è una cosa che rifà senza pensare, senza farti delle domande. Io chiedo che con i bambini, i giovani, parliamo di questo per dire, guardate, siete attenti, perché quando sei un uomo, in genere pensi che sei meglio di una donna, perché è la tradizione che lo vuole. E la stessa cosa per le persone, secondo il colore della pelle, e spiegare che questa tradizione è molto vicina di noi, perché per esempio si parla spesso per esempio di Nelson Mandela. Nelson Mandela, negli anni 90 c'era ancora l'apartheid in Sudafrica, siamo nel 2013, e credo che normalmente, se non fai caso, è una cosa inconscia, un'idea negativa delle persone secondo il colore della pelle. E io credo che è giusto parlare di questo in Italia adesso, perché il mondo sta non cambiando e l'Italia diventa un paese multicolore, e se non lo fai avrà problema. E lo stadio sembra un catalizzatore di razzismo. Tu che sei uomo di sport, tu che gli stadi li hai frequentati, in Italia soprattutto sembra che sia un laboratorio per il razzismo lo stadio. È così solo in Italia? È una fantasia giornalistica? È quello che hai visto anche in Francia? Però io credo che lo stadio è l'immagine della società, perché non è che il calcio è fuori mondo. Io credo che il razzismo sullo stadio è, diciamo, un razzismo molto primario. Si può capire tante cose. Per esempio, le persone che fanno il bu ai giocatori neri, che cosa stanno dicendo a questo momento? Ok, sei giocatore di calcio, sei famoso, hai tanti dinero, però tu rimani un nero. Tu rimani un nero e io sono un bianco, sono superiore a te. Io credo che si può giudicare la cosa velocemente così. Però il razzismo, secondo me, è più pericoloso, un razzismo inconscio. Per esempio, una persona va a cercare un lavoro, l'altro dice no, non c'è lavoro per te. Vai a cercare una casa, dice no, non ti do la casa. Questo secondo me è molto pericoloso. E soprattutto credo che bisogna riflettere sul razzismo, perché spesso le persone capiscono che è una violenza pura per le persone che ricevono questa cosa. E ricevendo diciamo questa cosa con una violenza, spesso non riesci a sviluppare la cosa molto importante per un bambino, e l'autoestima. L'autoestima è la cosa molto più importante che abbiamo noi, perché ti dà la volontà, il desiderio di andare lontano e non hai limiti. E credo che quando non sviluppa questa autoestima hai forse una cattiveria dopo dentro di te, e sia una cattiveria qualche volta lo fai contro l'altro, allora per la società è una cosa sbagliatissima. Una volta hai detto che una delle cose che ti faceva arrabbiare dei tuoi compagni di spogliatoio è quando dicevano che erano incazzati neri. Sì, è vero. Una volta un giornalista, uscendo da una partita, mi fa: oh, Turan, ti ho visto incazzato nero. Ho detto: nero no. Io però credo con questo bisogna anche scherzare. Io credo tante volte, quando si parla del razzismo, sembra una cosa molto difficile. Io penso che no, bisogna soltanto capire che è stata una costruzione intellettuale, una costruzione economica, perché quando abbiamo parlato del razzismo, della schiavitù prima, non è che la schiavitù è un confronto a persone di colore differente, è un sistema economico dove puoi sfruttare le persone, e dobbiamo pensare anche al sfruttamento che c'è dentro la nostra società, perché diciamo ci sono persone che provano a ricominciare, perché quando sfrutti delle persone, diciamo che la marge è molto più importante del guadagno. Giampaolo Cardo, hai alzato il ditino, come mai? Beh, volevo dire una cosa: i giornali europei, anche internazionali, che si sono interessati all'Italia nelle ultime settimane, sono interessati molto anche agli episodi di razzismo che hanno riguardato in particolare il ministro Cécile Kyenge. E quello che più colpiva questi giorni non è tanto che ci fosse del razzismo in Italia, c'è in tantissimi paesi, ma è la tolleranza degli italiani nei confronti di questo atteggiamento, di cui in tutto il resto del mondo, il mondo occidentale, si sa che è deprecabile. Invece in Italia sembra che siano molto più tolleranti. Ecco, questo li colpiva molto e dava molto fastidio anche ai commentatori. Però anche sul mondo di calcio succede qualche volta, quando ci sono episodi razzisti, sono giocatori o allenatori che escono dal campo, dicono: guarda, non è proprio razzista, è per disturbare i giocatori. Secondo me questo è un sbaglio clamoroso, perché stai dicendo: dai, potete continuare, non va bene. E io credo che bisogna dire che non bisogna accettare. Lilian, a parte la Champions League, quanta Europa c'è dentro di te? Ti senti europeo? Sì, beh, sicuramente, io sono francese, io mi sento veramente un uomo del mondo, perché sono nato in Guadalupe, Caraibi, ho avuto la fortuna di venire a Parigi, o sono venuto anche a vivere in Italia, in Spagna, ho girato un po' il mondo, e credo che io la cosa più importante è di sentirti essere un essere umano. Dopo, se giocassi ora avresti la cresta? Non lo so, però sicuramente che adesso non posso, perché i capelli non crescono. Lilian Thuram, le mie stelle nere oggi alle 19.30 con i ragazzi di Occhio ai Media, introduce Igiana Scego. Grazie davvero per essere stato ospite di questa puntata. Grazie dell'Altra Europa, il traffico, poi ancora qui in diretta dal Chiosso di San Paolo, Festival Internazionale. L'Altra Europa. Ancora l'Altra Europa, l'ultima parte, continuiamo a così far giostrare i nostri ospiti. Lucia Maggi, giornalista El País, cosa ha significato per te raccontare la crisi spagnola, anche immagino poi intrecciandola alla crisi italiana, perché le hai vissute tutte e due. Cosa significa per una donna, una precaria, una giornalista, esatto, sulla tua pelle? Io devo dire, della Spagna ho raccontato soprattutto l'esodo e la fuga da lì, cioè la cosa che più mi ha colpito, a parte appunto le imprese che iniziavano a chiudere, quindi il settore soprattutto edilizio che crollava davanti agli occhi di tutti, e quindi rimanevano queste grandi città completamente vuote, dei deserti in mezzo al nulla. La cosa che più mi ha colpito proprio di storie, di persone, è stata l'esodo delle persone straniere che erano arrivate in Spagna, che sono tornate nei loro paesi, e anche quella dei giovani, della gente della mia età, dei miei amici proprio, che hanno cominciato a studiare lingue astrusissime, non so, il norvegese, così, per andarsene a vivere in altri paesi. E spesso e volentieri sempre più non paesi europei, ma paesi che sono dall'altra parte dell'oceano, paesi che sono l'America Latina, il Brasile, l'Argentina, eccetera. E quindi, insomma, soprattutto questo, e soprattutto poi, appunto, diciamo, ci sono dentro tante storie che raccontano, che vengono raccolte dalle statistiche, ma che sono storie di persone che devono ammettere un fallimento in qualche modo, perché vivono da 20 anni in Spagna magari e devono tornare con pochi risultati in mano nel loro paese d'origine. E dalla Spagna andiamo a un'altra crisi, ed è quella greca. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό. Questo è un estratto del film In debito, scritto da Vinicio Capossele e Andrea Segre. Ciao Andrea, benvenuto qui all'Altra Europa. Buongiorno a te. Prima di parlare del vostro documentario, andiamo a vedere cos'è la Grecia oggi. Lo facciamo con la prima pagina di un giornale, Giampaolo Accardo. Sì, il quotidiano Eleftherotypia è un giornale piuttosto di sinistra. Dunque, voi sapete che in Grecia, dopo l'omicidio del cantante Pavlos Fissas, nella notte tra il 17 e il 18 settembre, da parte di un militante di Alba Dorata, questo partito neonazista, possiamo dirlo, la Grecia si è finalmente, le autorità greche sono finalmente svegliate e hanno deciso di segnare un colpo molto duro contro Alba Dorata. I dirigenti sono stati arrestati nei giorni scorsi, e c'è una grande inchiesta su tutti i movimenti che gravitano intorno a Alba Dorata, ed Eleftherotypia titola proprio su 5 nuove organizzazioni neonaziste che girano intorno a Chrissi Avgi, come si dice in greco, sono state scoperte, e il quotidiano racconta come sono queste organizzazioni, di quali complicità hanno goduto in seno alla polizia, in particolare greca, e perché le autorità hanno chiuso un occhio sulla loro attività. Jacopo, Alba Dorata sarà al centro proprio oggi qui al Festival Internazionale, vero, di una discussione? La presentazione faremo con Dimitri Degliolanes, che ha scritto questo libro per Fandango, Alba Dorata, la Grecia nazista minaccia l'Europa. La questione è che, come ha scritto il quotidiano greco Katimerini, lo scoppio della crisi ha permesso ad Alba Dorata, fino a quel momento solo un piccolo nucleo di razzisti paranoici, di acquistare un ruolo di primo piano nella vita politica greca. Cioè, qui abbiamo un partito effettivamente neonazista, in cui i militanti e i dirigenti e i parlamentari hanno tutti la stessa, non esiste il doppio petto da una parte e, diciamo, il mazziere dall'altra, ma i primi mazzieri sono i deputati. Il portavoce di Alba Dorata ha picchiato durante un dibattito, preso a schiaffi una parlamentare comunista durante un dibattito televisivo. Ma non sono queste le cose più gravi sono stati questi anni di aggressione agli immigrati in cui le autorità hanno fatto finta di niente. Oggi sembra esserci una importante reazione. Alba Dorata nelle elezioni del 2012 ha preso quasi il 7%, quindi è un partito che pesa enormemente nel panorama politico greco, che è molto frammentato. Era dato in crescita moltissimo, 12-13, qualcuno diceva 15% per il prossimo voto greco. Dopo l'omicidio di Fissas è di nuovo crollato, le autorità sembrano aver dimenticato questa connivenza o questo silenzio nei confronti di crimini di Alba Dorata. La reazione della magistratura finalmente è forte, 8 poliziotti arrestati, complicità svelate. Ora bisogna capire se queste inchieste terranno, se le prove sono solide, e addirittura la stampa greca, che si ricorda del tempo dei colonnelli, sta lì e dice: d'accordo, però facciamo le cose fatte bene, anche se questi sono nazisti, rispettiamo le garanzie, non facciamo cose, non mettiamo fuori legge un partito solo perché è cattivo. Andrea, abbiamo giusto una manciata di minuti, ma è questa la Grecia che avete visto tu e Vinicio girandola attraverso le taverne? Beh, è la Grecia quella che abbiamo raccontato e incontrato con Vinicio nella taverna di Atene Salonicco, è sicuramente la Grecia che si ribella a questa Grecia e che lo fa utilizzando cosa veramente forte che abbiamo trovato lì, utilizzando canzoni di 80-100 anni fa, perché in queste taverne vengono suonate canzoni scritte da autori come Marcos Vambakaris, Stizzanis e altri, che scrissero queste canzoni negli anni 20-30 e poi anche negli anni 40-50, in seguito alla fuga da Smirne, no? dalla epopea dei profughi greci che furono scacciati dopo la guerra greco-turca. E quelle canzoni, che hanno parole di sofferenza, di ribellione, di povertà e dignità, diventano oggi le colonne sonore di chi non vuole stare a guardare la crisi e di chi non vuole subirla in silenzio, ma ha bisogno di capire di non essere solo e di trovare la forza per reagire. Il rebetico oggi è uno di questi strumenti, non è l'unico strumento, certo. Però fa veramente impressione entrare in queste taverne dove ci sono 20-25 anni che, suonando canzoni del 1930, rispondono con vibrante emozione ed energia che contiene anche la disperazione, però poi propone una reazione a quella disperazione, e in questo modo costruiscono anche un argine e una risposta a quella risposta che invece è una deriva assai pericolosa. Anche tanti incontri con queste persone, soprattutto con i giovani, hai comunque trovato germogli di speranza, o la rassegnazione comunque ha avvolto il popolo greco? Beh, dopo le elezioni dell'anno scorso, che sono quelle da cui siamo partiti per il racconto di Indebito, cioè la parte iniziale del film parte proprio dalle elezioni del giugno del 2012, la disillusione è cresciuta tanto, no? Perché c'era stata una forte speranza di poter cambiare la classe dirigente che aveva prodotto la crisi, in connivenza con parte delle istituzioni internazionali, ma insomma c'è una forte responsabilità interna. E invece quegli stessi che hanno prodotto la crisi oggi sono esattamente gli identici a cui l'Europa chiede di risolverla, no? E questi greci sanno benissimo che non avverrà mai, cioè non è possibile che gli stessi che si sono presi i soldi e hanno creato il debito oggi d'improvviso diventino quelli che lo possono risolvere. Quindi quando l'anno scorso, su forti pressioni internazionali, si è arrivati di nuovo alla vittoria di Nea Dimokratia e di PASOK, che si sono messi insieme, lì la disillusione è stata molto forte. Però si tira avanti. Quando esce il film? 3 dicembre. Ma un giorno, no? Cioè poi sta fuori? Perché ieri 3 c'era... dicembre è il grande giorno. Ok, dopo, perfetto. Perché diciamo, mi sembrava una scelta di mercato un po'... No, esce in tantissime città il 3 dicembre con Nexo Digital e poi dopo rimarrà. Andrea Segre, Jacopo Zanchini, Giampaolo Accardo, Lucia Maggi, grazie davvero, un applauso ai nostri ospiti, anche a quelli che ci sono stati durante la puntata. Il festival continua e continua alla grande. Un grazie al pubblico, un grazie alla squadra, ai tecnici di Radio 24 e anche ai tecnici qui del festival che ci hanno dato una mano per coprirci. E grazie davvero, l'appuntamento con l'Altra Europa e a sabato prossimo. Radio24.it per riascoltare la puntata in podcast. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.